Benvenuti su Cinema Virale. Benvenuti in questa nuova puntata di Cinema Virale, in questa nuova rubrica chiamata Zero in Condotta. Sarà una rubrica per l'appunto molto poco politically correct e tratteremo di svariati temi che riguardano l'erotismo, la pornografia, la critica politica. Oggi trattiamo un argomento abbastanza intrigante, cioè parleremo di quei rapporti che possono essere amorosi, amicali, poco chiari, che avvengono all'interno di quattro mura e che si svolgono solo all'interno di case o teatri. Ci faremo guidare ovviamente da alcuni film della storia del cinema e anche dal nostro caro Gianmarco Basta, che ci aiuterà. Perché questa scelta? Eccolo! Di Caronte, un caron demonio, e non vedo l'ora di presentarvi in questo viaggio verso i gironi lussuriosi. Esattamente, ma perché è nata questa riflessione? Perché diciamo che dopo la questione di lockdown, isolamento, abbiamo visto coppie che si sono sfaldate, coppie che sono diventate più forti, insomma ne abbiamo viste di tutti i colori, tutto grazie all'isolamento. Tutti noi abbiamo visto letteralmente il cielo in una stanza, vero Gianmarco? Sì, in effetti, tra l'altro io ho visto anche Gino Paoli proprio, nel senso mi è apparso accanto a me quando facevo la bicicletta. Ah, ti è venuto a trovare direttamente? Sì, sono accorto perché gli occhiali da vista e quel baffo che è sempre identico dal 61 proprio. Nel 60 era senza baffi, 61 magicamente o bla, un paio di baffi. Oh, vedi? A me non è venuto in sogno Gino Paoli, non si è nemmeno presentato, non ho sentito nemmeno un senza fine, un cielo in una stanza. È meglio che non appaia in certe occasioni. È vero. E allora, il nostro Gino Paoli sappiamo che ha fatto un po' da colonna sonora, soprattutto con Senza Fine, a tutti i film usciti tra il 2015 e il 2016. Ma ora Gianmarco, io ti voglio parlare di un film che è stato in realtà citato e supercitato in realtà negli ultimi anni, soprattutto dopo la morte del suo regista, e qui mi riferisco a Bernardo Bertolucci, e stiamo parlando in questo caso di Ultimo Tango a Parigi, di un film completamente ambientato all'interno di un'abitazione. Tu che ne pensi, Gianmarco? È un film molto interessante nella misura in cui in effetti quando l'ho visto mi sono accorto di come il mezzo cinematografico, per meglio dire meta cinematografico, può far trasparire all'interno di una pellicola sensazioni disturbanti. È un film disturbante, non è un film appagante, non è secondo me neanche un film erotico, è un film di distruzione e di autodistruzione. Infatti non è un caso che nei titoli di testa ci siano i quadri di Bacon e appaiono molte immagini che hanno a che fare con corpi in decadenza. Mi ricordo ad esempio che c'è una scena iniziale che la portiera del palazzo sta lì che si sta lavorando una dentiera con lo spazzolino, sì. E appaiono delle scene molto forti, lo stesso Marlon Brando che va a trovare la sua compagna che è morta, che se mi ricordo bene è un piano sopra o giù di lì nello stesso condominio, cosa del genere. Ho questi ricordi, insomma, certo. O forse un'altra casa, però comunque c'è un senso di putrefazione e io so bene che sia a me che alla Sabri piace la putrefazione. Noi siamo molto baudelariani da quel punto di vista. Comunque tu hai detto scusa, il romanticismo la tisi è una malattia molto romantica. Dove sputano sangue noi vediamo sempre Chopin. Esatto. Dove ci sono delle tensioni tipo cancrena vediamo Rimbaud, così, capito? È giusto che sia così. Ma soprattutto Gianmarco, tu hai detto una cosa molto giusta, cioè per a lungo forse ancora oggi si è pensato che di base Ultimo Tango a Parigi sia un film erotico che fa parte di tutta quella corrente degli anni 70 del cinema erotico italiano, quando in realtà tu hai detto benissimo, è un film che parla di distruzione, che parla di morte. Quindi tutta quella critica che è venuta fuori, cioè sicuramente la critica è partita dalla famosa scena del burro e da quello che dopo è stato definito il Maria Schneider Effect, quindi l'utilizzo di un certo tipo di potere da parte dei registi sulle giovani attrici. Però in realtà forse proprio la crudeltà usata in quel non dire a Maria Schneider cosa sarebbe accaduto è pari a tutta una crudeltà che viene perpetuata durante tutto il film, ai danni ovviamente dei personaggi e non degli attori che lo interpretano, è chiaro. Però sembra così ben incentrato, sembra veramente far parte di quello che è il messaggio di Bertolucci del film, perché L'ultimo tango a Parigi non è un film erotico, ragazzi. Non è che vedere una tetta di Maria Schneider e il culo di Marlon Brando ci può fare eccitare. Guarda che si vede il culo di Marlon Brando, io non me lo ricordo così tanto nudo nel film. Ah no, al finale. Però il culo, sì, adesso non lo so, non so, chissà perché non mi è rimasto impresso. Chissà perché. Il culo di Marlon Brando, vai a capire che... No, mi ricordo in effetti altre cose, mi ricordo un po' più della Schneider, sinceramente, adesso non ci rimane niente male, cari ascoltatori. Ah, tu che ne pensi della questione burro Maria Schneider? Tutti coloro che ora su Twitter o sugli altri social stanno impazzendo dicendo che o dovrebbe essere censurata quella parte o proprio il film dovrebbe essere boicottato, come accadde nel 72 quando la censura lo buttò a rogo e noi abbiamo quel film ancora oggi solo perché molto illegalmente Bernardo Bertolucci conservò una pizza nel suo studio. Ah, ma... siamo in una fase di decadenza morale, nella misura in cui uno ancora cerca la morale e cerca di giudicare moralmente un film che è meramente un ragionamento estetico. È grave aver dato... Io guarda, su questa cosa adesso dico una cosa da avere tutti quanti i cosiddetti haters contro, però... E chiedo a Sabrina di dissociarsi da quello che sto per dire, ancora prima di sapere quello che sta dicendo, così no, si dice, no, come dicono i dentisti, prevenire è meglio che curare. Certo. Quindi dissociati, evitiamo il problema. Mi dissocio. Umberto Eco diceva che bisognava dare la patente alle persone prima che affrontassero i network sociali e che cominciassero a scrivere la loro opinione. È chiaro che questa overdose iperdemocratica, che democratica sembra ma non è, di dare a tutti quanti la parola, è diventato un casino mostruoso e quindi se dai la parola a tutti il principio comune della moralità esplode. Perché esplode? Perché alla fine è un principio interno a una società con dei chiari riferimenti a delle logiche coerenti alla borghesia in primo luogo, ma non solo, hai capito? E quindi che succede? Succede che tutto viene giudicato in un certo modo e soprattutto nella ipersuperficialità di questo periodo storico dove l'umanesimo e il rinascimento crollano a precipizio nel nulla più assoluto del deep internet. Tutto diventa facile da giudicare e a indicare a dito. Io sono sicuro che il 99% di quelli che indicano a dito dicendo che è una vergogna, bisogna boicottare i film e bla bla bla, non li hanno visti neanche. Assolutamente. Questi qua fanno dei copia incolla. Ma col copia incolla diventi un coglione, hai capito? Ma cos'è il copia incolla, hai capito? La comunicazione è dialogo. Io non copio incollo delle cose dette da altri, sono discorsi miei. Ricordiamoci cosa diceva Carmelo Bene a Maurizio Costanzo Show, citando altri importanti antropologi. Uno può parlare o anche essere parlato. Il copia incolla è essere parlati. Assolutamente. Ma infatti, collegandomi sempre a questo tuo discorso, restando sempre nell'ambito di Bernardo Bertolucci, quando nel 2003 è uscito The Dreamers, che è un altro film che viene definito in un certo senso il figlio più moderno di Ultimo Tango a Parigi, ci fu la questione che Bertolucci voleva, diciamo, lanciare giovani attori e magari anche giovani attori più sconosciuti. Ora, Michael Pitt e Louis Garrel venivano fuori da un background già più o meno noto, soprattutto Michael Pitt, essendo un attore americano. La cara Eva Green, che diciamo è scoppiata, è esplosa grazie a deve The tutto, Dreamer. Bernardo Bertolucci, deve tutto. Deve tutto. E infatti la cara Eva, fortunatamente, quando in una intervista di qualche anno fa, nel periodo in cui stava promuovendo Sim City, le fu chiesto come iniziò la sua carriera e lei fece riferimento a Bertolucci dicendo che sia il suo agente che sua madre non erano propriamente contenti di questa sua scelta di accettare di lavorare con Bertolucci in un film come The Dreamers, per paura che la sua carriera o il suo stato psichico avrebbero potuto avere lo stesso sviluppo e la stessa crisi avuta poi da Romy Schneider, da Maria Schneider nel 72. Ovviamente The Dreamers... Forse scusa se ti interrompo, Sadri, forse c'era il fatto che temevano che sarebbe lanciata soltanto verso una carriera di tipo di cinema erotico. No, avevano paura delle scene troppo esplicite, perché The Dreamers comunque per alcuni versi è molto più esplicito rispetto a Ultimo Tango a Parigi. Sì, certo, anche perché... Sì, è più esplicito, però... francamente è molto meno disturbante, non è disturbante, sì. è un film strepitoso, emozionante, non è un film congelato. Ultimo Tango a Parigi è un film cadaverico, nel senso che sembra di camminare dentro una camera mortuaria e immaginare quei corpi che poco prima erano vivi e simulavano amplessi. Sì, in The Dreamers magari c'è più l'illusione della giovinezza, illusione che si pensa di ottenere tramite una trasgressione sessuale, e quando in realtà la vera trasgressione, come si vede poi alla fine di The Dreamers, sta avvenendo fuori con il maggio del 68. E quindi magari The Dreamers per alcuni versi è più politico, però anche qui abbiamo un gruppo di persone, in questo caso tre persone, Michael Pitt, Louis Garrella e Eva Green, chiusi all'interno di una stanza o di una casa. Quindi cosa succede quando si resta troppo a lungo dentro delle mura? Cosa succede a questi personaggi di Bertolucci secondo te? Succede che la situazione diventa come degli atomi dentro una pentola a pressione, degli atomi d'acqua, intendo, dentro la pentola a pressione, e esplode nella misura in cui non riescono in effetti a creare un vero e proprio equilibrio. Se non ricordo male, il personaggio più neutro dei tre è il fratello proprio di Eva Green, che pare quello un po' più distante da quello che succede. Sembra quasi, no, l'osservatore che sta da un punto di vista esterno, sì, che guarda senza giudicare quello che succede. Ma io lo ritengo un film... cosa succede, però mi hai chiesto lì? Sono tre bambini che giocano, sono come tre bambini che giocano, e noi sappiamo benissimo, senza andare a riprendere Lacan o Klosowski, cioè, riusciamo a spiegare molto bene che il gioco dei bambini per gli adulti diventa il sesso, mm-hmm. E quindi loro in particolar modo, quei due in realtà, giocando a essere una coppia, a fare finta di essere una coppia con tutto quanto quello che comporta a livello di situazione, in particolar modo di dominazione, dominato, di scambio di ruoli, è molto bello quello che succede, anche perché Bertolucci ha come caratteristica principale che viene da Attilio Bertolucci, che è suo papà, no? Il poeta Attilio Bertolucci, e dare in mano un progetto a una figura così grossa come Bertolucci comporta anche inevitabilmente avere a che fare con la letteratura, con la linguistica storica e con l'etimologia. I sognatori rimandano all'etimologia, anche se tu mi hai dato un'etimologia diversa, mm-hmm. È presente a livello quanto riguarda l'onanismo, l'etimologia legata al greco, che ha a che fare col sogno, hai capito? To oner, tu oneratos, il sogno, cioè, hai capito, la capacità, la possibilità e la disponibilità a sognare. Quindi questi sognatori stanno immaginando di diventare adulti, questi sognatori a un certo momento intercettano la possibilità di diventare adulti, ma ci sono due situazioni che glielo impediscono, e in primo luogo sono i genitori, i genitori che irrompono nella casa, trova la casa in una situazione abbastanza di decadenza più assoluta, senza nulla, e vedendo dall'altro che tutti, che entrando nella stanzina e trovando che dormivano completamente nudi nello stesso letto, lasciano i danè sul tavolo per andarsene via, i genitori di Eva Green e il suo fratello. La Green se ne accorge e mi pare che tenta un suicidio dei tre col gas, se non vado errato. E poi la seconda cosa che secondo me dà l'idea che possono diventare adulti, ma fino a un certo punto, è il gioco. È il gioco del 68, che non è un gioco, ma come l'hanno intravisto loro con quel sasso che spacca il vetro, rimane sempre nell'ottica della casualità, e finché si è dentro l'ottica della casualità non si riesce realmente a vivere una vita piena, perché è una vita che tu non controlli e ti lasci un po' scivolare dentro. È chiaro che una vita con l'ipercontrollo impedisce di far trapelare possibilità, incontri, sensazioni, emozioni tangibili che hanno a che fare con la vita. Però l'eterno giocare fa sì che tu non farai mai l'amore, ma rimarrai sempre un sognatore, cioè un onanista. Sì, esatto. E ora, collegandomi sempre a questo tuo discorso, stavo ragionando su una questione. In un certo senso il cinema italiano, soprattutto se prendiamo quello degli anni 60 e 70, ha cercato più volte di entrare all'interno di situazioni come l'ambito familiare, ma non ambito familiare inteso come nucleo, ma ambito familiare inteso proprio come abitazione, come quattro mura. Cosa che magari all'estero non accadeva, soprattutto, non so se prendiamo il cinema nord europeo, scandinavo, si entrava in un tipo di interiorità, ma era un'interiorità più psicologica e filosofica. In Italia si entrava dentro il nucleo familiare, dentro le mura di casa. Voglio dire, anche lo stesso Visconti, senza andare a toccare gruppo di famiglie in un interno, anche lo stesso Gattopardo, se vogliamo, riguarda l'evoluzione di una famiglia. Prendiamo, non so, i pugni in tasca di Bellocchio, anche la caduta degli dèi, fino ad arrivare al portiere di notte di Liliana Cavani. Quindi, secondo te, ora sono ragionamenti che mi stanno venendo proprio mentre tu e io parliamo, secondo te i registi italiani cosa volevano vedere all'interno di queste abitazioni, all'interno di questo isolamento? Perché alla fine il nucleo familiare cresce e muore all'interno di un isolamento che è quello della famiglia ed è quello delle quattro mura domestiche. Quando si parla degli autori del cinema, gli autori inteso con la maiuscola, e annovero tra questi, non sono l'unico, e anzi bisognerebbe che tutti lo facessero, anche gli autori della commedia italiana, quello che vogliono indicare a dito in primo luogo è una sorta di denuncia di un immobilismo interno alla mentalità stessa della famiglia. Non c'è niente di più preciso che il cinema per radiografare i cambiamenti, no? I cambiamenti della società. E il cinema, chi fa cinema ha come ovviamente target, le persone che vanno al cinema in quel qui e ora, hai capito, in quel momento, e quindi la contemporaneità. Perciò è molto attrattivo, è molto intrigante, ma bisogna essere anche bravi per non scadere poi nella banalità, di nuovo da social network, il fatto di inquadrare quello che accade in quel momento storico, qualcosa che conoscono tutti. Io credo che sempre, anzi di questo ne ho la certezza, perché più vari maestri, in primo luogo il mio maestro cardine che del teatro e della musica, che è Enzo Iannacci, mi ha fatto ampiamente capire che non è tanto la storia in sé, la trama, la sceneggiatura, il canovaccio di quello che vuoi portare in scena, che vuoi raccontare, quanto il punto di vista, da che angolazione sta roba qua la fai vedere. E allora è tutta l'angolazione, è tutto stile, è tutta capacità di andare poi a penetrare quanto poi ogni regista e sceneggiatore vuole, perché succede che poi la bravura, hai capito, la genialità di alcuni registi, e io e Sandrina crediamo molto nella camera stilo, cioè insomma della politique des auteurs, sì. Degli autori, dei registi che hanno un valore, un potere circa assoluto sulla loro opera, anche se in realtà il nostro amore è romantico nella sezione migliore, perché poi l'industria cinematografica non funziona realmente così. Purtroppo ecco no. Purtroppo no. E allora succede che il colpo di teatro in alcuni registi è la capacità, adesso mi viene detto Mario Monicelli, che è la capacità di mostrare tutto ciò, ma con una leggerezza che si può definire, no, la levità mozartiana. Quando noi andiamo a leggere il termine levità mozartiana, vuol dire riuscire a camminare nella vita sulle punte, hai capito? Come qualcuno che danza, però arrivando ad esempio anche a raccontare tragedie, perché ad esempio Parenti Serpenti, che è un capolavoro, forse l'ultimo capolavoro di Mario Monicelli, sì. E recuperatelo in questo periodo di Natale, è un film che sotto Natale io andrei a vedere. Sì, è un film da vedere con i parenti. Esatto. Ti voglio bene nonna, ti voglio bene nonno, e loro, e adesso vediamo come andrà a finire. Ah, è quello, è chiaro, abbiamo due modi di fare cinema diverso, ok? Gruppo di famiglia all'interno e lì abbiamo Luchino Visconti, dove si avverte tutto, è tutto presente, vedi tutto, vedi il testo, il sottotesto, ti rendi conto che devi rielaborare quello che sta accadendo, perché non ti puoi limitare a quello che c'è. E Monicelli che fa tutt'altro con Parenti Serpenti, dove la meraviglia è scoprire a un certo momento all'interno del film quello che sta per accadere. Cioè, dovuto succede che ti accorgi che si arriverà a un tragico finale, ma lo accetti. E anche se dici, ma non doveva essere una commedia questa? Ma infatti, ma la commedia italiana ha questo di caratteristico. Diventa quasi una... Se c'è la Divina Commedia, io la chiamerei l'umana tragedia, ecco, mettiamola così. Assolutamente. E alla fine ci sono dei momenti anche molto ilari, se vogliamo, anche in gruppo di famiglia di un interno. Ma secondo me l'apice di ilarità dietro le quinte della creazione di questo film di Visconti fu che inizialmente il ruolo della madre fu assegnato a Audrey Hepburn. Cosa che oggi ci fa molto ridere, però in realtà Audrey Hepburn era già un po' uscita da quell'aurea da verginella che Hollywood le aveva affibbiato, quando decise di girare Colazione da Tiffany di Blake Edwards. Solamente che lì comunque lei fa l'accompagnatrice, non proprio la prostituta come nel romanzo di Capote. E quindi Visconti disse, vabbè, prendiamo la Hepburn. La Hepburn però si trovò costretta a rifiutare perché, diciamo, non era un ruolo per lei. Avrebbe stonato davvero un sacco con il film. Ci voleva la faccia di Silvana Mangano. È un'attrice perfetta per tanti ruoli molto complessi. Lei ha una capacità di scavo psicologico come Anna Magnani. Sono quelle grosse attrici. Per me la Hepburn, per quanto fosse brava, rischiava di fare cileccali. Assolutamente, ma anche perché per quanto ancora oggi gruppo di famiglie all'interno, in un interno, venga definito in un certo senso un film tragico o comunque uno dei film della decadenza di Visconti. Lo è anche, ma ci sono dei momenti che fanno obiettivamente ridere, tipo quando Burt Lancaster si trova all'interno di questa danza a tre con i giovani e dice: oh, cacchio, io però sono vecchio. A me quella scena ancora oggi quando la rivedo mi fa morire da ridere. Perché lì c'è l'invidia, hai capito? Esatto. L'invidia di chi non può più, di chi... Ma quella è l'invidia anche di chi avrebbe potuto ma non ha fatto. Esatto. È molto brutto trovarsi in una situazione così, non l'auguro a nessuno di trovarsi in una condizione di essere vecchi, molto vecchi, e non poter mettere in rev la vita per ricominciare da capo e dire: io li invidio questi ragazzi, li invidio perché avrei voluto fare anch'io quello che sta facendo loro, ma non l'ho fatto. E poi chiedersi, come si chiede Burt Lancaster, ma perché non l'ho fatto? Ma esatto. Perché? Ma perché non l'ho fatto? E la cosa terribile è che non se lo ricorda, ma non è un principio di Alzheimer quello, è che in effetti le motivazioni più o meno plausibili di quel periodo che ha a che fare con l'adolescenza spesso vanno poi a sfocarsi quando ci si ritorna sopra nel periodo della maturità, o meglio della post-maturità. Assolutamente. Con l'essere diventati adulti, grandi, e mangiarsi le mani per quello che non si è fatto. E io, un attimo, riprendendo il discorso precedente, mm-hmm. c'è in tutti questi autori, nella scelta di drammi borghesi da girare in un interno, c'è un'urgenza molto, molto forte, molto evidente, non si può nascondere dietro un dito, di voyeurismo. C'è una voglia di inocchiarsi e guardare nella serratura che cosa accade nella casa dei vicini. Certo, diciamo che di base siamo tutti un po' James Stewart, con il affacciati al balconcino nostro, con una macchina da presa, un obiettivo bello grande che cerchiamo di spiare cosa accade nella casa di fronte, senza bisogno che in quella casa stia avvenendo un omicidio. Hai fatto un centro pieno. Cioè, è così proprio. E infatti il perno, diciamo, di tutta questa puntata, noi adesso ovviamente abbiamo portato in auge degli esempi grandi e con delle situazioni abbastanza complicate, però perché... La riflessione di questa puntata. Adesso on demand è uscito l'ultimo film di Salvatores, che si chiama È fuori la primavera, che racchiude dei video che ha raccolto durante, diciamo, il lockdown primaverile che abbiamo vissuto tutti quanti. Sì, l'hanno proposto al Festival Cinema di Roma. Esatto, però quelli sono comunque dei video che sono stati mandati a Salvatores, o comunque video che sono stati pubblicati sui social. Sono comunque dei video costruiti. Quindi, per quanto alcuni video rappresentino anche magari e mostrino degli sfoghi personali, Salvatores, per quanto questo film sia un documentario, non è entrato all'interno di quelle quattro mura, sei d'accordo con me? Non l'ho visto, ma da quello che stai dicendo, certo che non è entrato. È stato, quindi, se ho capito bene, e te sto parlando in base a quello che mi dici, mm-hmm. un film di montaggio. Sì, è più o meno come l'esperimento che fece Ridley Scott nel 2008, mi pare, con Life in a Day, in cui tutti gli americani mandavano, diciamo, una sintesi in un minuto della loro giornata, e Ridley Scott poi li ha montati in serie per ottenere un film. Ah, non lo sapevo, interessante, devo recuperarlo poi. Ok. Oh, era grita, uno, come sono quelli che dicono, sì, ho visto, cavolo. Falsi! Poi tu dopo scopri che, parlamene, ma no, parla tu che è meglio, preferisco. C'è tanta di quella gente che spara certe balle focali, guarda, ma li becchi subito, perché poi crollano... tutte le loro tesi, antitesi, sintesi, è più facile di buttare giù delle palle giocando a dei birilli giocando a bowling proprio. Sono loro stessi i birilli che si buttano giù. Da chiaro. Poi. Comunque, ora per concludere questo episodio, dopo che vi abbiamo bombardato di tutte queste informazioni, noi durante questa... Ma Sabrina, la cultura è bombardamento. Ah sì, ma noi bombardiamo... È un po' forte. Io sono un prof di italiano e storia, che lavoro al polo scolastico Torino Guerra di Nova Feltria, e io credo che, io come esempio di prof di greco Giovanni Ghiselli, la cultura è una sorta di bombardamento di informazioni perché tu non puoi pretendere da un ragazzo, come noi non possiamo pretendere dai nostri ascoltatori. Chi sono i nostri ascoltatori? Chi sono? Certo. Mica possiamo sapere chi sono, e quindi non possiamo pretendere da loro che arrivi tutto, ma il fatto che arrivi qualcosa, e che arrivi magari molto, e che quello che non arriva dice: ah, santo cielo, questa cosa è una mancanza, è una lacuna, ed ecco che quando tu metti in moto, no, la curiosità, hai fatto del bene. Certo. E noi nel nostro piccolo facciamo molto, facciamo tanto bene a chi poi si avvicinerà. Certo. Agli autori, ai film, a tutti quanti gli input che noi stiamo dando, perché vale la pena sottolineare. Tutto quello che state sentendo, cari ascoltatori, è frutto di comunicazione diretta e non studiata e non costruita. No, quindi c'è l'istintività. Noi ci troviamo in questo momento, tête à tête, che è un'immagine un po' nuda e anche un po' in evidenza, e io e Sabri, no, tête à tête nel raccontare. Sì. E tutto quello che esce poi viene nel famoso momento del canovaccio teatrale, con un botta e risposta palleggiato tra me e lei, per poi andare in gol nei vostri cuori. Esattamente. E lo scopo di questa puntata era proprio questo. Voglio dire, ragazzi, ora tutti quanti abbiamo in comune questo momento di isolamento in cui chi è rimasto da solo, chi è rimasto col proprio compagno o compagna, chi è rimasto con la propria famiglia o con i coinquilini. Siamo tutti rimasti bloccati all'interno di quattro mura a guardare esattamente il cielo in una stanza, perché era l'unico modo in cui potevamo vederlo. E quindi i film di cui abbiamo discusso oggi ovviamente sono degli esempi un po' estremi, però mi piacerebbe davvero vedere in futuro dei film nati, dei film, dei mediometraggi, dei cortometraggi, quello un po' che ve pare o che ce pare, vedere dei progetti nati all'interno di questa dimensione di clausura, che ne colgano davvero lo spirito e non che ne colgano un video preparato e mandato a Gabriele Salvatores. E io in realtà sono molto curiosa di sentire le storie di tutti noi, perché ognuno ha vissuto quel momento in modo diverso, è cresciuto in maniera differente. Quindi questa puntata è davvero un incoraggiamento a tutti voi. Vi voglio sentire. Sì, no, è fondamentale. È fondamentale perché ci sono vari momenti che hanno a che fare col dolore e l'asfissia di un sistema ergastolano / carcerario. Anche perché non dimentichiamoci che noi nel primo lockdown abbiamo avuto un'esperienza che non solo eravamo in un carcere chiamato casa, mm-hmm, ma non sapevamo neanche quando ne saremmo usciti. Esatto. Quindi era doppiamente frustrante, perché non avendo un uomo, ha bisogno di un ultimatum, anche un condannato a morte ha bisogno di sapere quando è che finisce, hai capito, garrotato, impiccato o decapitato, fucilato. Se non lo sai, impazzisce molto di più, perché può essere qualsiasi momento. È chiaro che non è a sorpresa che arrivava Giuseppe Conte strafatto, che ci diceva un'ora prima: dalle liberi a tutti, dalle 3 di notte, certo, alle 4 resto libertà, e tutti quanti scrivono di notte a sorpresa, è 4:30, tornate a casa pronti, che se no vi facciamo 400 euro di multa, olè. Cioè, hai capito, quella era la cosa anche piuttosto curiosa. Se l'avesse fatto avremmo pensato che in effetti era un po' entrato in una mania di grandezza esasperata. Però alcuni politici poco ci manca, secondo sì, me, per quanto riguarda questa cosa. E poi mi permetto di dire una cosa, Sabri, in riferimento al discorso iniziale. Vada. Perché è importante dirlo. Allora, in primo luogo, va bene. Forse occorrerebbe avere una patente di maggiore responsabilità quando si frequenta i network sociali. Gli haters non esistono, sono persone, non sono pochi, sono muncoli, hai capito, che intervengono con delle uscite improprie, un po' come possono fare ad esempio i bambini in classe elementari, medie e superiori, quando partono con una pernacchia, con una bestemmia. Non si può ascoltare sta roba qua, perché sono disturbanti in un discorso, in un dialogo, dal momento che sarà dialogica la situazione, altrimenti che cavolo uno scrive a fare un post piuttosto che qualcosa di simile. Queste cose intorpidiscono tutta una vicenda che secondo me può anche essere funzionale, e in particolar modo non dobbiamo scendere a compromessi con l'odio con l'H maiuscola, l'odio che è ignoranza, e quell'ignoranza che fa sì che a un certo momento film, pellicole cinematografiche che da sempre i critici, ma non solo, hanno consegnato all'immortalità, vengano cancellati, cancellati per una situazione che ha a che fare con la dietrologia, ovvero tirare fuori un tipo di morale che non era presente in quel periodo, in quel modo. Se noi guardassimo, se noi ci comportassimo in questo modo, sempre accettassimo il fatto di dire quel film al giorno d'oggi non è più accettabile, perciò deve essere cancellato, deve essere bloccato. Ah ragazzi, noi ci stiamo comportando tale quale, sai che noi tale quale show, no? Tale quale alla Spanish Inquisition. Sì. Noi siamo la Santa Inquisizione. Noi cancelliamo. Cos'è questa obsolescenza programmata? Perché via col vento non lo posso prevedere? Perché la mani mostrata nel 38-39 a degli stereotipi razziali. Ma non poteva essere altrimenti! Non poteva essere altrimenti! Ma come potevi farla, scusa? Era quello il modo, cioè, era quella la struttura. Non si poteva fare altrimenti. Come, ad esempio, nell'ambito dell'arte, Caravaggio nell'Esseicento non poteva fare una cosa cubista, perché non era pensabile la distruzione, capito, dell'immagine, la destrutturazione e simili. Ogni cosa ha a che fare con due vettori, come ripeto ai miei ragazzi, il tempo e lo spazio. Il tempo è il luogo, la società di cui ne parla. E quindi bisogna rispettare il film come qualcosa che è stato immaginato, lavorato, diretto, prodotto e recitato in un periodo. Quindi non lo si può giudicare con la morale corrente oggi, Occidente, Italia 2020. Se lo facciamo, siamo persone bighe e pericolose, molto pericolose. Amen. E con questa io chiudo il nostro episodio. Vi dico solo che la rubrica di Zero in Condotta non so come spiegare, ma questo sarà solamente l'inizio. Vi assicuro che questo è un episodio relativamente soft. Cercheremo di scavare sempre più a fondo e passando sopra con il trattore, la macchina, tutti gli strumenti che abbiamo per passare sopra la censura e la morale. E detto questo, io vi do appuntamento alla prossima puntata. Saluto Gianmarco e lo ringrazio.